9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, oggi compie 100 anni uno dei più grandi economisti del secolo scorso, vorrebbe dire, francamente non vedo perché bisogna dire del secolo scorso, perché in realtà sta scrivendo un nuovo libro che esce nel 2011 e questo, stiamo parlando di Ronald Coase, e questi suoi 100 anni meritano un grande tributo. Ronald Coase ha cambiato la maniera stessa con cui l'economia e il diritto guardano a una cosa che da questi microfoni non può che starci molto a cuore, e cioè l'impresa. Perché questo giovane figlio di dipendente delle poste britannico, nato in un suburbio di Londra, non avviato per così dire da una famiglia né particolarmente agiata né particolarmente colta, i suoi avevano lasciato la scuola all'età di 11 anni entrambi, a chissà quale destino, negli anni 20 invece la London School of Economics, e poi negli Stati Uniti, giovanissimo, dall'Università di Dundee agli Stati Uniti, si appassiona all'America degli anni di Roosevelt, l'America del dopo crisi, l'America immersa nel più grande programma pubblico precedente a quello che è poi il più grande programma pubblico di ripresa di interventismo dello Stato dei nostri tempi, anche qui in risposta a una grande crisi, e girando gli Stati Uniti e ponendosi il problema del come mai esistessero le grandi imprese, Ronald Coase, che all'epoca aveva simpatie socialiste, si pose una domanda e disse: ma non è che per caso Vladimir Ilich Lenin ha ragione? Cioè, se i comunisti propongono una grande organizzazione di pianificazione centralizzata, perché sono convinti che questa grande organizzazione abbatte i costi organizzativi, non è che per caso è la stessa ragione per cui in America esistono imprese che tendono a essere così grandi, proprio perché lo scopo fondamentale, la ragione d'essere della grande impresa è abbattere i costi organizzativi? Non è che per caso la grande impresa privata non è nient'altro che l'applicazione della teoria di Vladimir Ilich, di Marx ed Engels, e cioè un'eccezione alla libertà degli scambi del mercato, in nome del fatto che un principio gerarchico organizzativo, l'impresa è più conveniente? E sulla base di queste riflessioni, che lanciò quando aveva poco più di 20 anni in una conferenza e che poi organizzò in un libro che cambia appunto la storia interpretativa dell'impresa, e questo libro uscì alla fine degli anni 30, Nature of the Firm, cioè la natura dell'impresa, partì tutto il primo filone di analisi che nasce nella testa di questo Ronald Coase, che si mette a studiare concretamente come e perché ci sono e come sono organizzate le imprese, piuttosto che riempire le lavagne di numeri ed equazioni. Lui è sempre stato molto polemico nei confronti degli economisti teorici ed astratti. E da questo primo filone, il filone dei costi di transazione, come si chiamano dopo Ronald Coase, nasce poi tutto un nuovo filone di studi, si chiama Law and Economics in gergo tecnico, e cioè nasce un'interpretazione, una teoria del diritto alla luce dello studio delle conseguenze che gli interventi di regolazione, il diritto civile, commerciale, tutta la parte del diritto privato ha ai fini dell'efficienza dei negozi giuridici e delle conseguenze di maggiore o minore efficienza della regolazione di questi negozi giuridici e dell'organizzazione dei mercati. Nasce tutto il filone quindi che si occupa per esempio dell'allocazione dei diritti di proprietà e dell'organizzazione dei mercati sui diritti di proprietà, alla ricerca anche in quel caso di criteri di allocazione più efficiente possibile. Nasce su questo filone un'intera branca di studi che prima non esisteva sul diritto della concorrenza, e poi a un certo punto negli anni 60 c'è un secondo apporto essenziale di Ronald Coase alla dottrina della scienza economica, perché scrive un saggio sui public goods, cioè sui beni pubblici, perché si pone il problema sempre alla luce dei costi di transazione e alla ricerca delle soluzioni più efficienti, di quando la regolazione debba prevalere sui liberi scambi del mercato, alla ricerca delle soluzioni di ottimo paretiano. E quindi riaprendo alla questione dei fallimenti del mercato e riaprendo quindi alla necessità della regolazione pubblica sui public goods, si passa, per così dire, da Ronald Coase socialista, quello dei primi tempi, a Ronald Coase classicamente liberale, che non procede per dogmi ideologici sulla questione Stato e mercato, ma invece alla ricerca di soluzioni che al contribuente come al cliente finale, al cittadino, devono comunque essere sempre giustificate non in nome di ideologia, ma in nome di soluzioni più efficienti, che è in definitiva la maniera, secondo me, di guardare non con ideologia ma con criteri di equilibrio e ragionevolezza alla soluzione del problema della regolazione pubblica rispetto al problema della libertà di mercato piena. Ecco, nel nome del centenario Ronald Coase, che sta scrivendo un nuovo libro e che festeggiamo oggi, noi ci poniamo in realtà un problema: non è quello di fare una lezione tecnica su Ronald Coase, sui libri, per quanto poco se ne parla se non tra detti lavori, ma perché ci vogliamo porre il problema di che cosa è davvero oggi, alla luce di questi filoni interpretativi, l'impresa nel nostro paese, di come è considerata, di quali sono i suoi margini veri di riconosciuta autonomia organizzativa rispetto alla pervasività della normazione, della legge. Pensate a quello che sta succedendo a Fiat Mirafiori, pensate a come la sinistra non riesce ad esprimere un'opinione univoca, perché avete sentito Fassino che dice: se io fossi sindaco, se io fossi un operaio di Mirafiori, voterei sì alla richiesta di Marchionne. Fassina, responsabile economico che invece spesso portiamo ai nostri microfoni, ha fatto un appello a Federmeccanica dicendo: beh, Federmeccanica che non segue la Fiat solo sullo scontro unilaterale, ma lascia libera le associazioni delle imprese meccaniche di continuare a pensare a una cornice di validazione, sia pure in deroga ai contratti, ci convince di più. Ci sono tanti esponenti del PD che inseguono Cremaschi sulla linea che quella di Marchionne sia un attacco senza precedenti ai diritti, senza precedenti dai tempi addirittura del 1925, dice il presidente del comitato centrale della FIOM, che si riunisce proprio questa mattina. E questo per rimanere solo all'interno di chi si riconosce nella sinistra italiana. Eppure anche quella, anche questa questione di Fiat Mirafiori è una questione che ricade in pieno nell'analisi di Ronald Coase. L'impresa è un fascio di contratti, come direbbe Richard Posner, un altro grande giurista d'impresa della scuola di Chicago, ed è quindi pienamente libera in questo di disporre, su base di libera concertazione con chi rappresenta i suoi dipendenti, dei tempi, degli straordinari e anche della rappresentanza, perché questa è la questione: non presentare liste per la rappresentanza sindacale se non si è sottoscritto l'accordo per l'utilizzo degli impianti. Oppure non è solo un fascio di contratti privati e quindi è sottoposta a regole che valgono erga omnes, anche quando questa stessa impresa non le riconosce valide per sé. Ecco, la questione che si dibatte a Torino è una classica questione che ricade in pieno su questa strepitosa analisi di questo centenario che ci ha insegnato a vedere l'impresa, lo Stato e il mercato con un occhio completamente diverso. Ma noi parleremo anche di questo in questa trasmissione, soprattutto di questo, per farvi capire come i grandi economisti vivono nelle cose vive che producono e nell'analisi che queste cose vive producono nelle teste vive. Chi sono i nostri interlocutori di oggi? Abbiamo innanzitutto Alessandro De Nicola, avvocato, lo conoscete bene, presidente della Adam Smith Society, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno De Nicola. Buongiorno. Abbiamo con noi Giulio Sapelli, uno dei miei più amati e taglienti commentatori di vicende economiche, insegna storia economica alla Statale di Milano. Buongiorno professor Sapelli. Troppo buono, caro amico. e poi abbiamo Alfonso Gianni, che è un'altra persona che io stimo molto, non sono d'accordo ma stimo moltissimo, è una persona secondo me molto seria, è un esponente di Sinistra Ecologia e Libertà, è stato sottosegretario allo sviluppo del governo Prodi, io lo ringrazio. Buongiorno Gianni. Buongiorno a voi e sono io a ringraziare naturalmente. Allora, io comincerei, se lei è d'accordo, Gianni, proprio con lei, perché bisogna cominciare mettendoci un po' di sale. Di fronte a questa storia che le imprese sono, per così dire, delle eccezioni al libero mercato, perché valgono in quanto organizzazioni gerarchiche solo in quanto hanno una maggiore efficienza. Spesso nel nostro paese non è stato così. Spesso noi abbiamo avuto dei grandi gruppi che sono rimasti grandi gruppi e che hanno impedito l'apertura alla concorrenza, malgrado che il loro principio gerarchico organizzativo fosse un'eccezione al principio di efficienza. Quindi la prima domanda è: la lezione di Coase non dovrebbe spingerci a essere ancora più concorrenziali, cioè a smontare grandi gruppi che restano incumbent? E poi, soprattutto, da lei vorrei subito una risposta alla questione essenziale, l'ultima da cui sono partito. Quanto l'impresa nel nostro paese, in concreto nella vita del nostro paese, deve essere considerata ancora appunto un fascio di contratti in piena libertà, e quanto invece secondo lei va ancora sottoposta alla pervasività di norme pubbliche, norme erga omnes? In definitiva, l'impresa nel nostro paese non è mai stata troppo libera, non è, siamo mai stati in un paese anglosassone. Come la vede lei, Gianni? Io penso che l'impresa nel nostro paese sia libera, e questo dato è sancito dalla Costituzione, e poi si può andare a ritracciare nella storia da quando la Costituzione vive come questa libertà è stata esercitata sui due fronti, sia dal punto di vista dell'impresa sia dal punto di vista dello Stato che la garantisce, che la deve garantire. Non sempre le cose sono andate nel modo voluto, né dal punto di vista dell'impresa né dal punto di vista dello Stato, ma questo lo possiamo vedere poi. Il problema è che questa libertà sancita dalla nostra Carta Costituzionale è entro un quadro, ed è il quadro, come si sa, che la maggioranza berlusconiana vorrebbe fare saltare con la modifica dell'articolo 41, cioè è legata a un principio, seppure vagamente e generalmente espresso, d'altro canto una Costituzione non è una legge, è un insieme di principi generali, e cioè il quadro di una finalità sociale, l'impegno a non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Questo è il quadro costituzionale entro il quale noi siamo. Oserei dire che è un quadro a cui non è estraneo la stessa riflessione di Ronald Coase, perché quando Coase giunge alla conclusione che la frontiera tra Stato e mercato è mobile, che dunque non vi sono delle monoideologie che guidano una scelta o l'altra, ma un criterio di efficienza su entrambi, attenzione, su entrambi i fronti, beh, non è del tutto lontano da questo principio nostro costituzionale, che naturalmente poi è legato anche alle tradizioni particolari del movimento operaio, sindacale e democratico italiano. Il problema è però che nella realtà il comportamento delle imprese italiane è, oserei dire, molto scadente. Lei diceva mettiamo del sale, facciamolo subito. Io considero, adesso le aggettivazioni forti mi piacciono poco, ma considero, diciamo così, eufemisticamente completamente sbagliato l'accordo, si fa per dire, insomma, accordo, perché ormai siamo di fronte a sindacati. Nel caso di CISL e UIL, che purtroppo sono, diciamo, satelliti nell'orbita dell'impresa, ma diciamo così, la scelta di Marchionne io la trovo completamente sbagliata, non solo perché affligge le condizioni di lavoro degli operai, e ogni tanto qualcuno nella testa e nel corpo di questi operai sarebbe bene che ci si mettesse, insomma, che la smettessimo di fare ragionamenti da tavolino e ci rendessimo conto anche del carico di vita materiale delle persone. Ma ripeto, non solo di questo, perché uno può dire vabbè, d'accordo, tu Gianni interpreti gli operai, io interpreto i datori di lavoro, tutto legittimo nella vita, ma anche dal punto di vista degli interessi delle industrie italiane siamo di fronte ad un accordo folle, senza prospettive, completamente privo di logica. Insomma, qui andiamo a produrre in un mercato automobilistico profondamente in crisi da una sovrapproduzione di autoveicoli quanto di più inutile vi sia, e cioè dei SUV come prospettiva, diciamo così, fondamentale della produzione. È chiaro che la Fiat da questo punto di vista diventa semplicemente un'articolazione di una fabbrica globale che sta altrove, che si chiama Chrysler e che peraltro è solidamente finanziata dal governo Obama, il quale ha sviluppato l'interventismo statuale nelle vicende della crisi della produzione automobilistica americana che il nostro governo semplicemente si sogna. Secondo, non siamo appunto di fronte a una ricerca che invece agita gli uffici studi di progettazione di tutto il mondo, cioè come risolvere il più grande problema della mobilità delle persone e delle cose nel mondo contemporaneo, nel quale da una decina d'anni a questa parte la maggioranza della popolazione mondiale vive entro città e quindi c'è un problema di circolazione urbana, di fuoriuscita dalle città, di entro nel medesimo, e non si può pensare di risolverlo accatastando delle scatole meccaniche come sono le automobili. Quindi bisognerebbe lavorare di fantasia, anche qui non si tratta mezzi pubblici o mezzi privati, possono essere tanto pubblici quanto privati, il problema è che nell'un caso o nell'altro non ci stanno materialmente e producono impatti ambientali e sociali assolutamente devastanti. Ma voglio dire, l'impresa Fiat di questo se ne fotte, tanto per usare un linguaggio accademico, non gliene importa assolutamente nulla. Altra questione, anche la Toyota ha applicato a modo suo il World Class Manufacturing. Il risultato nel 2009 è stato il ritiro di 10 milioni di autoveicoli dal mercato perché imperfetti o appunto non compatibili con lo standard di qualità totale che era uno, diciamo così, dei fiori all'occhiello del brand Toyota. Quindi anche dal punto di vista della appetibilità dell'oggetto prodotto, al di là della sua finalità sociale, mi pare che l'idea di insistere sulla saturazione dei tempi, su quando possono andare a bagno, quando devono fare la pausa, se sono proprio malati al 100%, stanno così così, beh, a me pare una prospettiva di fiato corto. Quindi qui siamo completamente al di fuori di Ronald Coase. Cioè, penso che se Ronald Coase alla sua età di 100 anni buttasse un occhio sulle scelte di Marchionne della Fiat, probabilmente ne direbbe di cotte e di crude. Va bene, ma io curioso di sapere. Io non avevo dubbi che con Alfonso Gianni, come avete visto, in una maniera pacata, ma insomma il giudizio è sia su come si è storicamente organizzata l'impresa in Italia, sia in particolare su come Marchionne intende rivendicare la piena autonomia della dimensione aziendale della libertà contrattuale con l'assenso dei lavoratori e di chi le rappresenta, ci ha dato dei giudizi molto tosti. Chiedo a Sapelli, rispetto a questi giudizi, che sono giudizi comunque di una componente molto importante storicamente nelle lotte del lavoro, nella politica e nella rappresentanza sindacale e anche sui media del nostro paese. Sapelli come la pensa oggi dopo la grande crisi? Cioè, quali sono i limiti organizzativi dell'impresa italiana per come essa è sotto i nostri occhi, parcellizzata, piccola, poi con pochi grandi gruppi, spesso incumbent e titolari di un potere di rendita rispetto ai quali la politica e la regolazione di tutti i colori è molto sensibile. Lo vediamo perché gli indici della liberalizzazione del nostro paese restano bassi, perché il potere dell'incumbent resta alto, dal mercato del gas a quello delle TLC, dove non si fa il salto per il digital divide perché Telecom blocca tutti. Quindi faccio anche nomi pesanti iscritti a Confindustria, mi espongo alle critiche, tirare le orecchie, però Sapelli su questo come la pensa e come la pensa sul caso Fiat? Beh, su questo la penso seguendo il grande Coase, che è un, poi dopo anche lui è un uomo che si erge sulle spalle di un grande gigante che è Commons. Infatti Coase non è che un pezzo della grande teoria istituzionale dell'economia, infatti la sua lettura quando vinse il premio Nobel nel 97, che nel 92 che cosa fece una grande lezione pubblicata sull'American Economic Review che si intitolava La natura istituzionale della produzione, e perché quello che si chiamano appunto i costi di transazione, per cui si capisce perché l'impresa si erge contro il mercato, perché i costi che io avrei a stipulare un'infinità di contratti in tempo T con uno che mi dessero tutte le risorse di uomini e di tecnologie per costruire un prodotto è meglio se le internalizzo, cioè se le metto all'interno dell'impresa, e quindi i costi di transazione gerarchici tendono allo zero. Io non compro e non vendo più nulla, ma li ho all'interno dell'impresa. Naturalmente Coas, che era un uomo molto vicino alla teoria istituzionale, quindi negli anni 40, 50, 60, fino a scrivere quel grandissimo articolo che spiega i famosi costi sociali dell'impresa, le esternalità, no? Quanto l'impresa possa fare del bene o del male all'ambiente attraverso la sua produzione. Seguendo Comos, che è stato, come voi sapete, il teorico fondamentale delle relazioni industriali americane, oggi avrebbe guardato alla vicenda delle imprese italiane in questo modo. Le imprese italiane crescono poco perché non sono in grado di creare delle strutture gerarchico-organizzative che siano più efficienti dei costi di transazione sul mercato, con una specificità però, che quello che si trova nel mercato non è un capitalismo fondato sulla transazione di mercato, ma è un capitalismo fondato sulla consanguinità e l'omofilia. Relazionale, sì. No, ereditario, di sangue, blood capitalism. Sì. Le imprese sono familiari. Relazionale è quando tu metti il principio di gerarchia, ma il principio di gerarchia non è creato per abbassare i costi di transazione, ma, come giustamente si dice, relazionale, cioè per massimizzare dei costi di omofilia, cioè clientelismo, corruzione, eccetera, eccetera. Coas in questo modo ci spiega, e ci ha sempre detto, è cosa che i liberali in economia dimenticano sempre, che il mercato non esiste in natura, ma è una situazione artificiale, e che l'impresa per sua natura non tende alla competizione, ma alla collusione. Teoria del monopolio, non a caso un allievo di Coas, l'altro anno il professor Williamson ha vinto proprio il premio Nobel per i contributi dati all'antitrust. L'Italia è un calabrone che non dovrebbe volare, ma invece vola, perché l'Italia massimizza la negatività di tutte le due questioni critiche che Coas enfatizza. Ci sono scarse transazioni di mercato, salvo dove tu hai delle imprese che hanno degli shock esogeni che li fanno crescere, le imprese manchesteriane, piccole e medie che esportano. E poi avevi un tempo, questa è una cosa che però farla capire agli economisti è difficile perché non hanno un pensiero storico, soprattutto non hanno cultura, e noi abbiamo avuto un tempo dove le imprese alla Coas, quelle che il nostro commentatore così argutamente chiamava le imprese capitalistico-leniniste, no? E funzionavano, ma perché? Perché c'era un principio monocratico, non c'era da spartirsi niente. Beneduce parlava con Mussolini e poi dopo De Gasperi parlava con il manager di ascendenza democristiana ma tecnocratica, e quindi si poteva organizzare gerarchicamente. Quando l'impresa pubblica è diventata non più l'impresa dello Stato amministrativo ma dello Stato dei partiti, è crollato tutto, perché quell'efficienza gerarchica di cui Oscar parlava così bene prima è venuta meno. La questione Fiat è tutta. Aspetti, qui la interrompo e riprendiamo di qua perché ci abbiamo la pubblicità. Eccoci, avevamo interrotto in questa cavalcata da una cosa l'impresa nell'Italia di oggi, abbiamo interrotto Sapelli sul punto di come la pensa sul caso Mirafiori. Sul caso Mirafiori, seguendo sempre Coas, perché adesso attacchiamoci a quel filo lì, no? Tanto per essere più chiari. Il dottor Marchione, che sarà bravissimo nei problemi della sicurezza aziendale, come faceva prima in Svizzera, si è sempre occupato di security, eccetera. Ho dei molti critiche sul suo abbigliamento, perché penso che ogni tanto una cravatta non ci stia male, per rispetto agli altri, ma devo dire, dimentico una cosa questa fondamentale della questione di Coas. Dato che l'impresa è anche un insieme di relazioni contrattuali, anche un insieme di relazioni contrattuali e di sistemi di solidarietà all'interno, perché se non fosse un insieme di sistemi di solidarietà la gerarchia non esisterebbe. Carisma, autorità, quindi non è solamente un sistema di poteri, ma si tratta ogni volta di verificare se costa di più avere un sistema di controllo enorme, costosissimo, legato ad ogni operaio, fondato sulla paura, sull'intimidazione, che garantisca la gerarchia. Qui ci sono dei saggi di un altro grande economista americano, Margin, allievo anche lui di Coas, che ha scritto proprio sulle relazioni industriali delle pagine meravigliose che Marchionne dovrebbe leggere. oppure se è più conveniente avere un sistema gerarchico interno, perché pur sempre di gerarchia e di primazia dell'imprenditore noi dobbiamo parlare, se no l'impresa, se non ha la primazia della scelta imprenditoriale, impresa capitalistica non è, può essere un'impresa cooperativa, eccetera, però anche lì c'è un imprenditore. Oppure se ha un sistema di gerarchia interna fondato piuttosto che sul potere e sull'autorità, cioè sul carisma e la legittimazione. Quello che è accaduto alla Fiat, io do una spiegazione molto semplice, è una cosa giusta, fatta bene, la work manufacturing process è inevitabile per mantenere la competitività, ma si è scelto la via sbagliata, perché bisognava trovare una soluzione, un accordo in deroga, non fare riferimento soltanto all'articolo 19 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, per cui chi, anche chi non aveva firmato, questa Fion, che francamente è una catastrofe, non è più un sindacato, è un partito politico, è il sindacato rosso dell'Internazionale Comunista, sono loro gli ultimi, anzi dell'Internazionale Zuppina, perché sono quasi tutti ex anarcosindacalisti, diciamo, seguaci alla sorella, e anche se firmano però abbiano la possibilità di rappresentanza all'interno, di rappresentanza sindacale. Questo fatto è stato una cosa che ha, che getta una luce coasiana negativa su questo accordo, perché vuol dire, e soprattutto è un accordo mio per la CISL, la UIL e la UGL e la FIMS che hanno firmato, perché questa cosa che si è applicata oggi con la FIOM, devo dire inevitabilmente, perché quando non hai un sindacato ma un gruppo di attivisti politici non puoi né contrattare né governare una fabbrica, un domani si può applicare contro di loro. Quindi io su questo sono indignato contro il ministro del lavoro Sacconi, che è una brava persona, dice delle cose giuste, ma non qui, in questo caso non deve fare l'agitatore politico, ideologico, deve fare il ministro, e quindi è il ministro anche degli operai che non hanno firmato. Quindi questa cosa qua è una cosa che spiega come la Fiat è sempre la Fiat, è la stalla modello. Non solo devi fare quello che dicono loro, ma devi dire che sei anche contento, perché sennò sei un reproba. Secondo punto, addirittura siamo arrivati al punto che la Federmeccanica è più avanti della Fiat, perché basta vedere quello che ha detto ieri il Presidente, sono preoccupati dell'esportazione di un modello simile. No, la Federmeccanica, perché, infatti lo dico perché è un passaggio singolare della storia italiana, ammettiamolo, sapere, cioè la Federmeccanica, cioè insomma chi ha la rappresentanza di tutte le imprese del settore meccanico scritte a Confindustria, si pone il problema, avendo una presenza molto articolata al suo interno, di che cosa questa applicazione di questa rappresentanza, di scegliersi i sindacati, per così dire, perché di questo si tratta, che cosa può voler significare nella realtà della vita italiana. E il ridicolo è che i giornali di destra attaccano questa Confindustria, che è quella che si pone il problema invece della complessità del sistema della rappresentanza, e incredibilmente è la stessa Confindustria che è stata attaccata esattamente dal sindacato di sinistra, che oggi non so come dire, perché dovrebbe dire... Scusa Oscar, questo spiega perché l'Italia è un paese che non si capisce come faccia andare avanti, no? Perché nessuno fa più il suo lavoro, no? Perché nessuno fa più il suo lavoro. La Confindustria come avrebbe dovuto rispondere a questa cosa qui? Come avrebbero dovuto rispondere i sindacati? Facciamo un contratto transoceanico, facciamo un contratto di gruppo Fiat Chrysler che si allei con quella cosa potentissima, bravissimi sono, intelligentissimi, che sono i sindacati americani. Che ricordo, quando vennero in Italia, sono andati a trovare la CIS, sono andati a trovare la UIL e hanno mandato un telegramma di saluti, congratulazioni alla FIOM il giorno in cui faceva quell'assurda manifestazione. Quindi, va bene, diciamo... va bene, fermiamoci un secondo, come vedete le contraddizioni, partendo da un grande dell'economia applicate alla concreta organizzazione delle forme e delle relazioni delle imprese nel nostro paese e a una vicenda scottante e delicata come quella di Fiat Mirafiori, vi fanno vedere come i grandi economisti sono vivi proprio perché le loro idee sono vive. Allora, vediamo con Alessandro De Nicola, liberale, liberista di impostazione classica, anche un aspetto in più, oltre al parere e l'opinione su queste stesse due focus che chiedo anche a lui. C'è poi un aspetto in più che la vita italiana insegna da decenni a chi chiede cosa alla mano, per esempio più concorrenza e un diritto della concorrenza meno favorevole o alle oscillazioni discrezionali della politica o agli interessi organizzati. Faccio notare a tutti che solo nelle ultime settimane abbiamo ulteriormente di nuovo dovuto apprendere che siamo con 2.000 distributori di benzina oltre i 22.000 che erano la soglia nazionale, sono 15.000 in tutta la Germania dove sono 80 milioni, quindi un pochino più di noi. Oppure se pensiamo invece all'efficienza del criterio organizzativo pubblico invece che privato, ai 27.000 assunti dalla regione Sicilia di cui vi ho detto incessantemente tambureggiando la settimana scorsa, ieri l'Assemblea regionale siciliana un'altra bella scoperta, ci ha regalato altri 4.000 assunti in sanità, abbassando contemporaneamente il coefficiente di finanziamento regionale della sanità. Quindi questi 4.000 saranno a carico del ripiano pubblico da parte di Roma, cioè di tutti voi cari contribuenti in ascolto, siate siciliani o meno. Ecco, queste piccole cose quotidiane, piccole si fa per dire, perché 27.000 più 4.000 sono 31.000, il totale dei dipendenti di Fiat Auto Italia sono 22.000, quindi la regione siciliana in 3 settimane ha assunto una volta e mezzo il totale dei dipendenti di Fiat Auto, però ci insegnano che i grandi servono a capire le vicende quotidiane. Come la pensa De Nicola su questa forte reattività italiana al diritto della concorrenza secondo quel che cosa ci ha insegnato? Un po' dovunque, dal più basso al più alto livello, si tratti della Fiat come si tratti del benzinario o del commerciante di prossimità dietro l'angolo? Il secondo grande articolo di Kos che anche lei ha citato e che gli ha dato la fama di vero padre dell'analisi economica del diritto è quello che è il teorema di Kos, è quello che dice che in assenza di questi costi di negoziazione, di transazione, come ha detto lei, è del tutto irrilevante chi ha il diritto, perché tanto le parti si metteranno d'accordo per la soluzione più efficiente. Cosa vuol dire questo spiegato in termini concreti? Se io ho una mandria di mucche che sconfinano nel territorio del mio vicino agricoltore, è indifferente che lo Stato dica il diritto è dell'allevatore di far sconfinare le mucche piuttosto che il diritto dell'agricoltore di non vedere il suo campo coltivato invaso dalle mucche. È completamente indifferente. Perché? Perché se non ci sono alti costi di negoziazione e di transazione, le due parti si metteranno d'accordo per la soluzione più efficiente. Quindi se il diritto è dell'agricoltore, l'allevatore gli pagherà una specie di affitto per poter consentire alle sue mucche di sconfinare. Se è dell'allevatore, l'agricoltore gli pagherà un qualche cosa per compensare il fatto di avere meno mucche che invadono il suo territorio. Oppure si metteranno d'accordo, soluzione fantastica, per avere un recinto che verrà pagato da chi dei due non ha il diritto, ma alla fine la soluzione efficiente si trova. Perché questo è importante? È importante perché compito dello Stato o delle autorità di concorrenza dovrebbe essere allora, se tutto questo è vero, di abbattere il più possibile questi costi di transazione, cioè abbattere il più possibile la gelatina che rende la negoziazione tra le parti più difficile, la rende più vischiosa, e quindi quanto più ci sono questi costi di transazione, tanto più è difficile che ci si metta d'accordo per raggiungere la soluzione efficiente. E quali sono questi costi di transazione? Beh, per esempio, un tipico costo di transazione che distorce sono le tasse. Quanto più il sistema fiscale è complicato e mirato a singole situazioni e non è neutrale, mi spiego, se ci sono esenzioni per situazioni particolari, incentivi, se ci sono diverse aliquote fiscali a seconda se sei uomo o donna, che è l'altra trovata del secolo che ha fatto il nostro Parlamento per i cervelli che rientrano all'estero, cioè se ci sono tutta una serie di cose che non rendono l'investimento conveniente là dove c'è la convenienza economica, ma invece lo rendono conveniente, laddove c'è la convenienza fiscale, beh, questo è un tipico costo che rende vischioso il negoziare, e lo Stato italiano, ad esempio, è specialista nell'avere una legislazione fiscale orrenda, assurda. Un altro costo è l'informazione. In Italia è difficilissimo avere informazioni, questo è un tema che avete trattato tante volte anche in radio, da parte delle amministrazioni pubbliche su qualsiasi cosa. Si parla sempre della digitalizzazione della pubblica amministrazione, ma provate a cercare un bilancio di un comune italiano nel 95% dei comuni italiani, provate a capirci qualche cosa. Quindi questi due esempi, che sono proprio esempi macroscopici che ognuno di noi, moltiplicati per 10, fanno sì che l'Italia sia un paese vischiosissimo, in cui i costi di transazione, le leggi, qui stiamo parlando di Mirafiori, le leggi sul lavoro e le leggi sulla previdenza fiscale, sulla previdenza sociale, sono delle leggi che rendono costosissimo fare qualsiasi cosa. La differenza che c'è tra garantiti e non garantiti, le decine di forme di contratti di lavoro non autonomamente decise tra le parti, ma che sono classificate dalla legge e dalle quali basta fare una cosa sbagliata e si esce per vedersi applicato un altro contratto. Beh, questi sono tutti costi di transazione. Questi sono tutti costi che rendono difficile la negoziazione tra le parti, che rendono vischiosa la concorrenza, perché poi naturalmente più è tutto complicato, più è facile colludere, e che fanno sì che l'Italia sia un paese bloccato. Ma abbiamo fatto tre esempi talmente eclatanti: fisco, lavoro, previdenza, informazione, trasparenza. Cioè, già questi cinque riescono a bloccare un paese. Ora, quindi la cosa, io ero più o meno certo, scegliendo questo interlocutore, di totalizzare questo risultato. Prendendo la teoria di non è così, applicandola al nostro paese, ci sono buone ragioni, io la penso così, buone ragioni, non sto a misurare, io sono più dalla parte del peso predominante sul mancato sviluppo o sul gap di crescita italiana per la parte pubblica, cioè per la parte appena illustrata da Alessandro De Nicola. Però io non posso fare a meno di riconoscere che ci sono buone, anzi ottime ragioni per essere molto critici in nome delle teorie e di quello che ha scritto Ronald Coase e di quello che i suoi allievi hanno continuato a produrre, per essere altrettanto critici sia su come si sono organizzate le imprese private, uno. Due, sia su come le interrelazioni tra le imprese private, i sindacati, il regolatore pubblico si è articolato nella storia, sia infine come ci diceva adesso Alessandro Nicola, lo Stato in concreto è la incarnazione della totale inefficienza di ottimizzazione paretiana di tutte le sue funzioni fondamentali di incentivo o disincentivo, che può fare attraverso le sue regole amministrative, i suoi interventi diretti o indiretti, quindi politica di bilancio e politica fiscale. La verità è che se noi prendiamo la lezione di Ronald Coase e la applichiamo a quasi qualunque ambito della vita italiana, a vederci ad apparire sotto i nostri occhi come soluzioni inefficienti, sono non solo il più assoluto di quelle pubbliche, ma anche un numero straordinariamente elevato di quelle private. E allora c'è una questione fondamentale a cui poi chiedo una risposta proprio rapidissima a tutti e tre: come si sblocca una situazione collusiva la cui somma di inefficienza, sia pubblica che privata, ha questo aspetto collusivo che prevale sugli spiriti animali vitali che dovrebbero rompere le collusioni per fare più efficienza dopo, magari a costo anche di qualche polemica sociale e di qualche sconfitta da una parte e dall'altra? Questa è la domanda che girerò dopo l'informazione sulla circolazione stradale. Alfonso Gianni, la collusione all'inefficienza si rompe più nella sua visione per l'Italia di oggi con più spinta pubblica, visto il livello di confusione che c'è nella politica italiana di oggi, oppure accettando che ci debba essere, per così dire, un morso di spiriti animali da parte privata? La Marchionna, lei che dice? Secondo me, naturalmente, se lasciamo spazio agli spiriti animali del capitalismo, per usare una celebre espressione, il risultato è quello che abbiamo di fronte. Perché, come è stato anche accennato, gli spiriti animali del capitalismo aborrono nei fatti, non nelle parole, la concorrenza, cioè portano inevitabilmente a un regime monopolistico o, nel migliore dei casi, se più piace, oligopolistico, soprattutto se lo vediamo a livello mondiale. Questo mi pare acclarato non solo nella teoria, ma almeno in 200 anni di storia. Penso che su questo almeno dovremmo essere d'accordo. Conseguentemente a un regime di questa natura ne soffre la democrazia, la quale non può essere confinata nelle regole istituzionali, ma se c'è, parte dalla società civile, e non c'è nulla di più civile della società economica, quindi dai luoghi di lavoro, quindi dai luoghi di vita reale delle persone. Non è perciò un caso che Marchionne viola un principio costituzionale fondamentale quando, come corollario del suo accordo, suppone che i lavoratori che non accettano l'intesa e scioperano contro di essa possono essere passibili di licenziamento, o quando pratica una logica da America di fine degli anni 20, cioè no union, per cui il suo problema è la defiumizzazione della Fiat, non la decislizzazione, perché appunto in quel caso ha un sindacato prono. E qui francamente mi stupisce che un uomo della cultura storico economico-politica di Giulio Sapelli accosti Sorel alla FIOM, che non c'entrano assolutamente niente, come con serenità sono convinto lui stesso dovrebbe consentire. Allora, il problema è che dobbiamo invece agire in senso totalmente contrario agli spiriti animali del capitalismo. Al massimo dovremmo elevare a livello di spirito puro la sua natura, se ciò fosse possibile. Naturalmente ciò non è possibile. Una lezione cosiana sta nell'ambiguità del messaggio, diciamo così, scientifico-politico, mi si permette questa espressione un po' ossimorica di cose. Tutti i grandi hanno questa ambiguità, l'ambiguità è una cosa fertile, e infatti e poi la responsabilità ricade sugli interpreti e continuatori, che devono essere intelligenti nella lettura. Cosa è in questi 600 anni di vita? La dimostrazione del grande dramma intellettuale di un uomo onesto stretto tra due modelli, quello, diciamo così, del mercato capitalistico, quello dello Stato socialistico. Il problema è che noi questo secolo l'abbiamo passato e probabilmente dovremmo superare entrambi questi due modelli. Allora, quella interrompo, perché altrimenti poi non riesco a avere risposte anche. Comunque, si è capito quello che pensa. Sapelli come pensa la bilancia italiana della inefficienza? Va riequilibrata con un po' più di pubblico o privato? Penso molto modestamente che bisogna fare una doppia mossa del cavallo, cioè c'è bisogno di lasciare liberare questi spiriti del capitalismo, come dimostra il fatto che le nostre medie e grandi imprese funzionano molto bene anche nel periodo di globalizzazione, pur tra immensi sacrifici, insomma. E poi però è inevitabile porsi questo problema drammatico di una riforma dello Stato imprenditore, cioè qui non si riesce a uscire dal sottosviluppo, dalla decadenza economica, per cui il nostro comparto manifatturiero rischia di cadere se non si ripensa a un intervento economico dello Stato che sia però merito tecnocratico, che sia come fu per esempio Lenin negli anni 50. Ecco. Io ho già fatto delle proposte precise: nazionalizziamo le fondazioni bancarie, diamo tutti questi soldi al Tesoro, che crei una nuova impresa per le alte tecnologie e ci metta a dirigerla un officer, non un consiglio di amministrazione, un board. Ecco. Nello stesso tempo bisogna fare con cautela e con senza furori ideologici, come mi sembra auspichi l'amico De Nicola, bisogna fare questa opera di disboscamento. Lei pensi che cos'è stato, per esempio, nelle relazioni industriali? Inutile che giriamo intorno. Le perplessità che venivano dalla CISL e anche dalla CGIL, ma per opposti motivi, rispetto allo statuto dei diritti dei lavoratori, in questi anni si sono rivelate tutte. Sarebbe stato molto meglio avere dei buoni contratti tra le parti, dei buoni patti tra le parti sulla rappresentanza, che avere una legge che ha creato polemiche, un Moloch, e non ha difeso, io ripeto, perché si parla tanto di diritti, ma e quei poveri lavoratori che lavorano nelle imprese sotto i 15 dipendenti, che sono in maggioranza, quindi sono completamente abbandonati. No, no, noi dimentichiamo che qua ci sono una minoranza assoluta, quella dei lavoratori ipertutelati rispetto agli altri. Giusta osservazione di Sapelli, bisogna sempre guardare le cose come stanno, e sul totale di 23 milioni, che sono la cifra ufficiale dei lavoratori italiani, sono meno di 9 quelli che rientrano nel perimetro della piena tutela, cioè un articolo dei 15 dipendenti in su dello statuto dei lavoratori. De Nicola, concludiamo con lei. Dal suo punto di vista, e per la scuola nella quale si riconosce, qui la spallata verrà dagli spiriti animali del capitalismo, oppure ci sarà una parte pubblica capace di tornare, per così dire, alla parte alta della tradizione nittiana, come vorrebbe Sapelli? Una piccola premessa: anche il COS, che si dice stretto tra Stato e mercato, che è quello che analizzava la natura dell'impresa, bisogna ricordarsi di una cosa: non è affatto stretto tra Stato e mercato, perché la scelta se internalizzare i costi oppure andare sul mercato è una scelta volontaria, non c'è lo Stato che dice devi fare così. Si fa così. È una scelta volontaria, è l'impresa che decide, e si è visto nel corso degli anni che queste sono decisioni che cambiano. Pensiamo al fenomeno dell'outsourcing: le imprese prima internalizzavano tutto l'apparato informatico, dopodiché nel corso degli anni hanno deciso che era meglio andare sul mercato e quindi esternalizzare gli apparati informatici. Sono confini labili che però sono decisi dalle imprese, non dallo Stato, primo. Secondo, cosa bisogna fare? Io non ho furori ideologici, sono molto banale. A me basterebbe l'applicazione del Washington Consensus, una previdenza ragionevole, un mercato del lavoro scandinavo, non dico neanche americano, scandinavo, quello della Danimarca, una tassazione meno, non solo meno invasiva, ma una tassazione meno schizofrenica, che quindi cerca di fare la microgestione dei fenomeni economici con le tassazioni, meno incentivi alle imprese. Siamo la radio di Confindustria. Ma è giusto, perché si tratta di... Sono convinto che bisogna togliere tutti gli incentivi alle imprese. Io sono molto banale, mi basterebbe una sobria applicazione del Washington Consenso. Paese ideale, se non che quel Washington Consenso agli occhi di molti è naturalmente ancora l'espressione dello Stato imperialista e multinazionale. Detto questo, come avete visto, viva Ronald Cosma, l'Italia di oggi continua a rifiutare l'applicazione di questi principi, e come avete visto il volume della musica mi invita a tagliare, e vi do appuntamento a domani. Grazie agli ospiti di oggi, grazie alla vostra pazienza. Una scusa purtroppo agli ascoltatori che erano in fila per intervenire e che non abbiamo fatto intervenire oggi. Domani mi riprenderò. Grazie.